Vediamo un po' quello che soffrire. Vediamo un po' di cosa sono capace. Io non lo so, perché è la prima volta per me cercare di cantare qualcosa di romantico e triste un po', sì lo so. Non mi importa proprio un cazzo, yeah, come on. Non mi importa proprio un cazzo, yeah, come on. Non mi importa proprio un cazzo, yeah, come on. Non mi importa proprio un cazzo, yeah, come on. Non mi importa un cazzo, yeah, come on. Stavamo dicendo che la musica è bella se ascolti un po' di più il tuo cuore va giù verso lo stomaco che digerisce il purè. Oh yeah, yeah.